Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi sul caso Monte dei Paschi di Siena, con cui stiamo praticamente lavorando da svariati giorni, non soltanto in tutta la radio ma anche sul fronte delle inchieste qui a Italia in controluce. È intervenuto oggi sulle pagine del Sole 24 Ore il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e ha detto che bisogna fare chiarezza, bisogna tutelare l'interesse nazionale nella vicenda MPS. Sul fronte delle indagini intanto ci sono molte cose nuove, una arriva da Trani e l'altra da Roma, e ci sono naturalmente delle novità anche per quanto riguarda Siena. Vi chiediamo ancora oggi se questa volta ha ragione Giorgio Napolitano quando invita tutti, magistrati, management vecchio e nuovo di MPS, a fare chiarezza, a tutelare l'interesse nazionale nel caso di Monte dei Paschi di Siena. E ha ragione Napolitano quando sostiene che Banca Italia ha agito in modo corretto. Questa è un'altra frase riportata oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Allora noi ci colleghiamo, vi ricordo allora il sms che potete inviarci al 349-238-6666. Siamo collegati ancora con Raffaella Calandra da ieri a Siena. Raffaella, quali sono le novità? Sì, buongiorno Daniele. Al momento qui a Siena quella di oggi è una giornata di studio, possiamo dire, di studio dei documenti acquisiti e di preparazione dei prossimi interrogatori in programma, compresi quelli degli indagati, a cominciare cioè dall'ex numero uno della banca e dell'ABI Giuseppe Mussari o dall'ex responsabile della sua area finanza, un personaggio cruciale di questa inchiesta come Gianluca Baldassarri, l'uomo che un ex manager della Dresner aveva definito come uno dei membri della cosiddetta banda del 5% dalla percentuale che prendevano sulle operazioni. Proprio questo manager, Antonio Rizzio, oggi sarebbe dovuto essere interrogato oggi come testimone a Siena, ma questo interrogatorio al momento è saltato. Sembra di capire che i PM vogliano prima completare il quadro dei testimoni per poi andare a sentire direttamente appunto quali che sono gli indagati, a cominciare appunto da Mussari. Allo stesso tempo però qui a Siena chiaramente arriva anche l'onda lunga delle inchieste che nelle altre procure d'Italia sono state aperte su MPS, dicevamo quella di Roma per manipolazione del mercato e quella di Trani che ha invece come ipotesi accusatoria proprio quella di omessa vigilanza nei confronti degli organi di vigilanza Banca Italia e Consob. E sempre la procura di Trani, su un mandato di un esposto di un imprenditore, ha mandato oggi la Guardia di Finanza in una filiale della MPS in provincia di Bari per sequestrare circa 358.000 euro, perché relativamente ad una inchiesta sui derivati che sono un filone importante anche delle inchieste, perché sono più d'una quelle aperte qui a Siena sul Monte dei Paschi, sui famosi e contestati derivati Alexandria, Santorini e Nota Italia sottoscritti dalla banca dopo l'acquisizione di Anton Veneta. Daniele. Cominciano ad arrivare i primi sms, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori che sono molto sensibilizzati su questa vicenda e molti anche preoccupati, se ha ragione Napolitano quando invita a fare chiarezza, a tutelare l'interesse nazionale nel caso di Monte dei Paschi di Siena, se ha ragione Napolitano quando sostiene che Banca Italia ha agito in modo corretto. È chiaro che nel paese che ha conosciuto anche il disastro molti anni fa della Banca Romana, del crack di Sindona, della sua banca privata italiana, del vergognoso arresto di Baffi e Sarcinelli, del cosiddetto bacio in fronte di Fazio e Fiorani, di molte altre vicende, da Cirio a Parmalat, non era difficile prevedere certamente che questo caso sarebbe poi diventato il grande scandalo da campagna elettorale, prima poi di un clamoroso imbroglio finanziario. Dicono i nostri nostri ascoltatori, per esempio, ci chiedono se Monte dei Paschi di Siena è una banca sana, come mai le azioni non valgono nulla, ci chiede un ascoltatore. Con le sue dichiarazioni Napolitano conferma invece le responsabilità di Banca Italia, dice un altro ascoltatore. Una sola speranza che il default dello Stato si porti via tutto, disfattista questo nostro. Poi c'è il solito, diciamo, nostro ascoltatore che ci invita a diciamo soprattutto a guardare dalla parte del PD e quindi di Sposetti in particolare, che un nostro ascoltatore definisce porta borse di D'Alema. E va bene, un altro ascoltatore, Giuseppe, dice: come dipende, MPS non mi accontento delle parole del Presidente, chi allora non ha controllato, lo dica lui, dice Giuseppe. Altri ascoltatori dicono che Napolitano dice ovvietà, una dichiarazione di banalità e insignificanza, dice Enrico da Padova. Il primo che doveva far chiarezza è proprio il Presidente della Repubblica, dice un nostro ascoltatore, quello che si faceva rimborsare i voli da Strasburgo come fossero di prima classe anche quando erano low cost, dice scrive un nostro ascoltatore. Saverio di Sesto San Giovanni ci ricorda che Napolitano ha ragione in pieno, ma per correttezza il PD deve fare subito chiarezza. Allora, Raffaella Calanda, tu hai da lanciare anche un'intervista importante. Sì, è un'intervista breve, molto breve, perché sono molto poche è molto poca la voglia del presidente della Fondazione Gabriello Mancini di parlare, perché in questa direzione sta andando anche molto l'inchiesta. Lui stesso ieri, Mancini, è stato interrogato dai PM ed era, abbiamo scoperto oggi, l'ennesimo interrogatorio che i magistrati hanno fatto con il numero uno della Fondazione del Monte, con il quale vogliono chiarire soprattutto un passaggio, che è quello dell'operazione della quota dei 498.000 euro che la fondazione ha messo nell'ormai famoso FRESH, ossia il prestito della banca necessario per riuscire ad arrivare all'acquisto di Anton Bennett. Ebbene, Mancini, se conferma la linea del silenzio sull'inchiesta a tutela del titolo e della banca, dice a margine, diciamo, della presentazione di un pianoforte che hanno ricevuto in eredità da Mascagni, ci conferma però il momento di difficoltà stessa per le casse della fondazione. Sentiamolo. E siamo grati appunto al dottor Farinelli per questo atto generoso nei nostri confronti, che è un riconoscimento anche all'attività della Chigiana. Il momento non sono dei più facili, però l'obiettivo è quello di continuare, pur rivedendo un po' l'attività, riducendola magari da un punto di vista numerico, ma non da un punto di vista qualitativo. Questa è la scelta che abbiamo fatto nel momento in cui le risorse sono diminuite. Questo ci impegna ancora di più a far di tutto perché, proprio per ricambiare questa fiducia, cercando di portare a compimento quelli che sono i nostri compiti, la nostra missione, e quindi di far lavorare al meglio la Chigiana perché svolga un ruolo culturale ma anche di promozione da un punto di vista economico per questa città e per questo territorio. Che comunque attraverso, diciamo, anche iniziative come quelle di oggi, tipo culturale alto, diciamo, forse è la strada che la fondazione spera e confida di intraprendere anche per venire fuori da un momento che è tutt'altro che facile, anzi. Sì, noi l'abbiamo detto nel documento, stiamo cercando tutte le strade e tutti i mezzi di finanziamento proprio per potenziare quella che è l'attività in un momento abbastanza difficile. Continuano gli sms, avete sentito Mancini al microfono della nostra Raffaella Calanda, e devo dire che i nostri ascoltatori sono molto divisi. Per esempio Aldo dice: ha ragione il Presidente della Repubblica, che è un galantuomo, vede lontano a differenza di certi demagoghi, per esempio come Di Pietro, dice Aldo. Nel PD si sentono tutti con le spalle coperte dai magistrati amici, ecco perché fanno queste cose, dice un altro ascoltatore, credo vicino al centro-destra. C'è chi come Corrado Lacomo dice che l'ABI non controlla, ma anche Italia non vede, la Consum non sente e i politici incassano mazzette. Viola da Milano dice che bisogna fare tutto subito in fretta, interrogando i presunti colpevoli, chiarendo tutto. Raffaella Calanda, dunque chiudiamo questo tuo collegamento da Siena. Quali sono brevemente le prossime scadenze, le prossime mosse che si possono ipotizzare a parte i magistrati? Beh, sicuramente termineranno di ascoltare i testimoni, per cui Antonio Rizzo, l'ex manager della Dresdner, che non è stato sentito al momento, verrà riconvocato. Dopodiché è molto facile immaginare, come dicevo, che chiameranno uno dietro l'altro gli indagati, quindi i protagonisti, su quelli che sono sotto accusa per queste vicende, a cominciare da Mussari, da Baldassarri e dai loro, diciamo, collaboratori più stretti. Questo è quello che è facile immaginare per il momento. Bene, grazie Raffaella Calanda. Vi ricordo che Italia in controluce è un programma della redazione di Radio 24, è un approfondimento che va in onda tutti i giorni a quest'ora alle 13.30, che ci trovate su varie situazioni, innanzitutto di internet, radio24.it, dove potete riascoltare tutte le puntate, scaricare il podcast naturalmente. Poi siamo su Facebook, abbiamo una pagina del gruppo, Twitter, e la nostra email è controluce@radio24.it. Buon weekend a tutti da Daniele Biacchesi.